Sono le ore 10:21 di mercoledì 15 giugno 2024 e assisto abbastanza attonito a tutta una serie di effetti domino dei risultati delle ultime elezioni europee, non tanto per quello che succederà a Strasburgo e a Bruxelles, dove già gli equilibri si stanno riassestando in modo da fondamentalmente garantire un governo dell'Unione in continuità con ciò che di abbastanza fallimentare abbiamo visto negli ultimi anni, ma come spesso accade nelle politiche nazionali, adesso mettendo da parte lo scenario italiano, ci sono paesi come la Francia e come la Germania dove assistiamo anche a una certa ricorsività, no, di riflessi condizionati. Quello che succede quando avanzano le destre, beh, ricorda un po' quello che è successo negli anni 30. Per esempio, in Francia i centristi cercano l'alleanza con i partiti di destra, di estrema destra. Poi da noi c'è stato anche questo, diciamo, nella stretta attualità c'è stato anche questa sgrammaticatura comportamentale tipica degli smottamenti molto rapidi e imprevisti, per cui il leader, il segretario dei repubblicani, quindi del partito ex gollista, Éric Ciotti, ha stretto un'alleanza segreta con Le Pen e con Jordan Bardella, il giovane delfino di Marine Le Pen, e per suggellarla ha chiuso a chiave con un lucchetto la sede del partito, impedendo quindi all'ufficio politico di riunirsi e di sfiduciarlo. L'ufficio politico del partito comunque si è riunito a 500 metri in un altro posto, in una caffetteria di un museo, mi pare di aver capito, lo ha sfiduciato, quindi non è più il segretario dei repubblicani e quindi questa alleanza non andrà in porto. L'altra cosa simile agli anni 30 che sta succedendo in Francia è che si sta formando il Fronte Popolare, no? Un po' come accadde con Léon Blum, l'unica esperienza di sinistra al governo nella Terza Repubblica, che fu molto interessante proprio perché scatenò una serie di, anche lì, di reazioni della società francese che hanno poi un filo diretto, un legame diretto anche col collaborazionismo che seguì all'occupazione tedesca negli anni 40. E questo è quello che un po' spaventa, no? La similitudine tra quello che succede in Francia e quello che succedeva negli anni 30. In Germania succede invece che il partito centrista, la CDU di Scholz, è molto divisa perché c'è una parte che vorrebbe stringere un'alleanza addirittura con il partito dell'estrema destra, anche questo in grande crescita, Alternative für Deutschland, l'AfD, il che ricorda magari un po' alla lontana, me ne rendo conto, quando Papen pensò di allearsi con i nazisti per andare al governo e impedire la salita delle sinistre al potere. Ora, le sinistre di allora forse volevano fare la rivoluzione, non credo che i socialisti tedeschi intendano collettivizzare le campagne, però il riflesso condizionato è lo stesso, ci si allea pur di non perdere il potere con una formazione di estrema destra. E io mi chiedo veramente che cosa stiamo imparando dalla storia. Probabilmente niente, e speriamo di essere salvati dalla cronaca.